Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. L'Italia ha molti divari da recuperare, è innanzitutto un paese anziano. Questo rende la sfida della crescita economica non solo più difficile, ma anche decisiva. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Siamo un paese anziano, per dirla con il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, che ha invitato a rimuovere le ragioni per le quali è così bassa l'occupazione di giovani e donne, anche a costo di combattere rendite di posizione o interessi particolari. Un paese da cui, aggiungiamo noi, se ne vanno i pochi giovani qualificati rimasti? Puntata da non perdere oggi, in esclusiva a Giovani Talenti, i nuovi dati sui flussi di Under 40 che lasciano la penisola. Scopriremo come sono Lombardia e Veneto le regioni da cui emigrano maggiormente i giovani. Avete compreso bene, proprio dal ricco nord. Tra poco tutti i dettagli. Oggi facciamo rotta verso la Francia, dove andremo a incontrare un docente universitario che ha messo radici in Bretagna. Mi sono reso conto di essere tagliato fuori e quindi... Eri un outsider, diciamolo tutto. Sì, ero proprio un outsider, nel senso che mi sono preso anche delle soddisfazioni. Però insomma uno deve guardare anche un po' gli aspetti concreti. Di concreto io non avevo ottenuto niente. Michele Bolognesi, 32 anni, è un professore associato all'Università di Rennes, in Francia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Puntata monotematica delle news di Giovani Talenti sui nuovi dati relativi alla fuga dei giovani dall'Italia. Come ogni anno abbiamo interpellato l'anagrafe italiani residenti estero, l'unico registro ministeriale in grado di monitorare i flussi in uscita dal paese. Abbiamo chiesto di tracciare il totale dei 20 quarantenni che hanno lasciato la penisola nel 2011, una goccia nel mare dei 4.208.977 connazionali che, alla data del 31 dicembre, risiedevano all'estero. Paola Rolli, viceprefetto e responsabile dell'AIRE, ci spiega subito quanti 20 quarantenni se ne sono andati lo scorso anno. 27.616. Prevale di più la fascia 30-40enni o 20-30enni? Sicuramente quella tra i 30 e i 40 anni. Abbiamo 16.051 italiani all'estero nel 2011. Contro 11.565 20-30enni. La cosa interessante è che la differenza uomini-donne si allarga nella fascia 30-40 anni. Ben 9.298 uomini e 6.753 donne. Nella fascia dei 20-30enni abbiamo 6.271 uomini e 5.294 donne. Altro dato interessante è che la fascia più produttiva, cioè i 20-40enni che abbiamo ora in esame, costituisce una parte fondamentale in percentuale del totale degli espatri, giusto? Certo, in percentuale abbiamo il 19% dei 20-30enni e il 26,47% dei 30-40enni. Per un totale di 45,54% dei 20-40enni. Sulle destinazioni, dottoressa Rolli, è interessante vedere come l'Europa sia ancora la meta più ambita, ma sale l'America Latina. Partiamo dall'Europa. Possiamo vedere una prevalenza di Germania con 3.549 espatri, insomma giovani 20-40enni, subito seguita dal Regno Unito con 3.366 presenze, in Svizzera anche un cospicuo numero, 3.118, al quarto posto la Francia, 2.338, poi Spagna, 1.719. Guardando fuori dall'Europa, gli Stati Uniti fanno la parte del leone, 1.821 espatri, ma poi ci sono Argentina e Brasile. Ma la cosa più interessante è il boom del nord degli espatri, Lombardia e Veneto fanno la parte del leone, qui sfatiamo un luogo comune. Sì, in Lombardia abbiamo 4.768 partenze e il Veneto 2.568, solo al terzo posto la Sicilia, che diciamo origine di moltissimi emigranti di un tempo, 2.418. Il Lazio... Parliamo sempre di giovani 20-40enni, ecco. Sì, il Lazio è solo al quarto posto con 2.236 giovani espatriati. Poi ritroviamo il nord con il Piemonte, 2.197, al sesto posto la Campania, 1.909. Tra l'altro il dato di iscritti nell'anno 2011 è abbastanza simile a quello del 2010, avevamo 27.246 giovani tra i 20 e i 40 anni, nel 2010 abbiamo 27.616 giovani 20 e 40 anni nel 2011. E aggiungiamo che sulla base di indagini indipendenti citate in passato anche da Giovani Talenti, solo un giovane emigrante su due si registra in media all'AIRE, nonostante sia obbligatorio per legge dopo un anno all'estero. A livello indicativo, senza dunque alcuna pretesa di ufficialità, è ipotizzabile stimare in circa 60.000 i 20-40enni che nel 2011 hanno lasciato l'Italia. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Francia. Per la prima volta però approdiamo nell'incantevole Bretagna. Nome: Michele. Cognome: Bolognesi. Età: 32. Città di origine: Pavia. Studi: laurea a Pavia, master di ricerca a Nizza e poi PhD a Montpellier. Anno in cui hai lasciato l'Italia: prima nel 2002, poi nel 2009. Per andare dove? In Francia. Perché? Per avere un buon lavoro in un'università competitiva. Quale lavoro svolge attualmente? Maître de conférence, professore associato. Dove? A Rennes. Tornerai? A breve, mi sembra piuttosto improbabile. Ridan, 300 milioni d'amis per introdurre la storia di Michele Bolognesi. A 32 anni in Francia ho uno stipendio decente, quello che riceverei in Italia tra 30 anni, più soldi per viaggiare e invitare collaboratori, più responsabilità, ma soprattutto non sono considerato una giovane promessa, sono un uomo con delle responsabilità e dei diritti. La storia della giovane promessa e del bravo ma aspetta me la sono sentita ripetere già da qualche volta in passato a concorsi in Italia ed è onestamente piuttosto ridicola. Così ha scritto Michele a giovanitalenti@radio24.it. Pura prostituzione intellettuale, dunque, quella di convincervi che a 30 anni in Italia siete buoni solo a fare la fila. Che futuro ha un paese così? Sì, perché ha, diciamo, fra i 30 e i 40 anni è l'età in cui uno scientificamente è più produttivo, è al top delle sue possibilità, ed è un peccato sprecare questi anni e cercare delle borse per sopravvivere ancora qualche mese. Partiamo dall'inizio. Nel 98 ti iscrivi a matematica all'università di Pavia. Cosa ti porta su questa strada? Essenzialmente la passione, perché è una facoltà piuttosto difficile. Nel 2002 ti laurei. Un veloce inciso: qual è il giudizio complessivo sulla qualità dell'insegnamento ricevuto in Italia? Ho ricevuto un insegnamento piuttosto eterogeneo rispetto alla qualità. Alcuni corsi erano sicuramente di buon livello, altri purtroppo erano piuttosto scadenti. Subito dopo parti per la Francia. A Nizza ti aspetta un master di ricerca in matematica che ti occupa il primo anno, poi un triennio di PhD sempre in matematica a Montpellier. Prima domanda: perché la scelta francese? Ho avuto la fortuna di avere un relatore di laurea straniero, olandese, quindi diciamo era abituato ad una carriera nel campo della ricerca fatta di mobilità e di spostamento fra diversi paesi. Per cui diciamo è una delle prime cose che mi ha suggerito il mio relatore di laurea, dicendo che Nizza era un'università di buon livello dove avrei potuto, insomma, avere una preparazione adeguata. Quale ambiente accademico scopri in Francia? È vero che la mobilità dei ricercatori è il segreto di un mondo molto più aperto dove circolano le idee, l'esatto contrario dell'Italia? Appena arrivato a Nizza scopro un ambiente molto eccitante, con un turbine di seminari e di tanti ricercatori invitati. In particolare, appunto, nel mio campo esiste una regola: ogni avanzamento di carriera deve corrispondere a un cambiamento di sede, e questo è una garanzia. E non è poco! E non è poco! No, infatti. In Italia non è così. La garanzia di una circolazione di idee è una sorta di assicurazione contro quelle pratiche pseudonepotistiche che sono tipiche di quando uno fa tutta la carriera nella stessa università. Quando in un concorso non ci sarà mai il tuo relatore a farti passare, devi contare solamente sulle tue forze. O sei bravo o niente. Poi arriva la sorpresa, perché nel 2006 tu rientri in Italia a Pavia con un assegno di ricerca, poi altri due anni alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Allora, come riesci a rientrare in Italia, ma soprattutto quale ambiente accademico trovi ad aspettarti? Di entrare in Italia perché avevo mantenuto dei contatti un po' con l'Università di Pavia dove mi ero laureato, e poi era anche un periodo in cui mi illudevo che l'Università italiana riuscisse un po' a rialzare la testa. Poi ho avuto la fortuna di appunto avere il postdoc alla Scuola Normale, che rimane comunque un'istituzione di alto livello anche tuttora, però mi sono accorto che a fronte di alcune individualità illuminate che peraltro mi consigliavano di andarmene, c'era un sottobosco di università sottofinanziate al limite della bancarotta, in cui si difendono con le unghie e coi denti i pochi finanziamenti e le poche posizioni permanenti che si hanno, per cui io, non avendo diciamo un aggancio diretto, un relatore in Italia, praticamente in breve non ero tagliato fuori dalle possibilità di avere una posizione permanente. Ed è anche per questo che tu definisci la tua esperienza italiana da manuale, giusto? Mi sono reso conto di essere tagliato fuori e quindi... Eri un outsider, deciso. Diciamolo tutto. Sì, ero proprio un outsider, nel senso che mi sono preso anche delle soddisfazioni, interesse da parte di alcuni colleghi, congratulazioni, complimenti ai concorsi, però insomma uno deve guardare anche un po' gli aspetti concreti, e di concreto io non avevo ottenuto niente. E in una email che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it elenchi alcuni dei problemi del nostro sistema universitario. Uno riguarda le commissioni di concorso. Perché il sistema francese offre maggiori garanzie? Per esempio i concorsi da ricercatori universitari, in Italia la commissione è composta da solo 3 professori, per cui se 2 sono d'accordo rispetto a un candidato, il terzo non ha alcun peso e non è difficile mettere d'accordo 2 persone. Qui le commissioni sono composte da 6 membri interni, 6 membri esterni al laboratorio. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Ho quindi deciso di tentare la sorte in Francia presentandomi ai concorsi per le posizioni da professore associato. Sono stato convocato per dei colloqui. Con mio stupore, alcune di queste università si sono contese la mia assunzione a colpi di offerte migliori. Allora, Michele, pura fantascienza oppure è così che funziona nei paesi normali e nelle università normali? Gli stipendi qui in Francia sono abbastanza rigidi e gestiti dallo Stato, diciamo, per quanto venga contata come anzianità anche il dottorato e il postdoc, per cui quello con cui si contendono i candidati è per esempio riducendogli il carico di insegnamento, offrendogli dei finanziamenti maggiori. Nei paesi anglosassoni questa cosa è ancora più portata all'estremo, nel senso che lì proprio si paga di più anche una persona, c'è cioè una contrattazione. Io sono completamente d'accordo. Da settembre 2010 ti trovi all'Università di Rennes, nella brumosa ma affascinante Bretagna. Allora, di cosa ti occupi esattamente? Io mi occupo di geometria algebrica, che è un campo con una storia antichissima, millenaria, ma ancora molto affascinante, che ha molti problemi aperti. Allora, affrontiamo con te il concetto di concorrenza o competizione, un meccanismo che tu definisci virtuoso, ma che in Italia fatica ad attecchire. Siamo un paese allergico alla selezione dei migliori, troppi figli di raccomandati da, cooptati da sistemare, diciamola tutta. È una cosa difficile da capire. Sicuramente un problema sono quelli dei pochi mezzi a disposizione, e in qualsiasi realtà dove ci sono pochi mezzi si scatena un po' una guerra fra poveri che non guarda in faccia a nessuno, nel senso, per cui ognuno cerca di salvare un po' i suoi studenti nei limiti del possibile. Un po' sicuramente c'è una parte di cultura assistenzialista tipica italiana. Un ulteriore componente è una poca fiducia nel sistema, cioè tutti si aspettano che gli altri saranno un po' scorretti, per cui cercano di mettere le mani avanti. E poi sì, innegabilmente ci sono dei fenomeni di raccomandazione. Michele, quanto è ampio il gap tra le retribuzioni in Italia e all'estero per un giovane accademico? Allo stato attuale, soprattutto all'inizio della carriera, è piuttosto sensibile, sì. Poi ora in Italia hanno anche aumentato la lunghezza degli scatti di stipendiali dell'università pubblica da 2 a 3 anni, e poi in particolare in Italia manca quasi del tutto il welfare per i ricercatori dell'università pubblica, e quello incide parecchio sullo stipendio. E al contrario, ci spieghi quali agevolazioni ti dà lo Stato francese per ringraziarti di lavorare per loro? Qui chi è funzionario, chi è funzionario statale, in particolare i ricercatori dell'università, hanno svariati vantaggi, tra cui degli asili riservati per i figli, dei contributi per i viaggi, biglietti omaggio per spettacoli o teatro, nonché delle infrastrutture sportive competitive. Michele, in tutta onestà, c'è anche una colpa del sistema Stato, università e imprese che investono solo briciole in ricerca e sviluppo? La responsabilità è estremamente grande, sia dello Stato che dell'impresa, responsabilità anche nei confronti del futuro di un paese, perché un paese che non investe in ricerca e sviluppo non sarà competitivo. In particolare è strano che le imprese non vedano questo problema, cioè come credono di difendersi dalla globalizzazione senza sviluppo e con i paesi emergenti dove la forza lavoro costa meno della metà? Se si investisse maggiormente in ricerca e sviluppo, probabilmente si riuscirebbe a produrre una qualità del lavoro superiore e non ci sarebbe il bisogno di delocalizzare. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambierà? Come? In questo momento la vedo un po' depressa, un po' ripiegata. Credo che la gente si incominci a rendere conto dei problemi culturali che sono alla base del declino degli ultimi 20 anni, però non c'è grande fiducia che le cose cambieranno. La speranza sono i giovani e forse ancora di più i giovanissimi. Credo che l'istruzione e la conoscenza siano la chiave, il punto di partenza. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Michele Bolognesi, 32enne professore associato all'Università di Rennes in Francia. Michele vi giunge dopo una laurea in matematica a Pavia, seguita da un master di ricerca a Nizza e un dottorato a Montpellier. Nel 2006 rientro in Italia, ancora a Pavia, con un assegno di ricerca a cui fa seguito un'esperienza biennale alla Scuola Normale Superiore di Pisa. In Italia Michele partecipa a numerosi concorsi da ricercatore, raccogliendo però solo complimenti. Così opta per mettersi sul mercato straniero, scoprendo come oltre Alpe gli Atenei arrivino persino a contenderselo. Accetta la cattedra a Rennes e scopre un paese, la Francia, lontano anni luce da un'Italia che arranca anche e soprattutto negli investimenti in ricerca e sviluppo. Ci raggiunge ora in linea Roberto Merletti, docente di ingegneria del sistema neuromuscolare al Politecnico di Torino e direttore dell'omonimo laboratorio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professore, tra poco spiegheremo perché l'abbiamo invitato in trasmissione. Prima però un commento alla storia di Michele. Anche lei, al pari di altri suoi colleghi illuminati, ex docenti di Michele che lo hanno supportato nel percorso italiano, gli avrebbe consigliato di andarsene? Sì, io gli avrei consigliato di andarsene. Restano in Italia prevalentemente i ricercatori, talvolta anche molto bravi, che però hanno un appoggio forte a livello istituzionale. Questo è particolarmente vero per chi fa ricerca applicata e ha bisogno di laboratori, di assistenti e di fondi. La bravura è spesso condizione necessaria in Italia, ma quasi mai è una condizione sufficiente. È davvero peccato. Professore, lei si è formato negli Stati Uniti, dove ha svolto ricerca e ha insegnato alla Boston University fino alla metà degli anni 90. Poi ha deciso di rientrare in Italia, dove nonostante il suo background è divenuto professore ordinario solo a 60 anni. Un anno fa lei ha scritto a giovanitalenti@radio24.it per raccontare proprio questi anni di ritorno. Rientrare in Italia, fare ricerca sul serio, insegnare in modo diverso e fuori dagli schemi ha rappresentato un problema? Sì, chi ritorna in Italia dopo anni di ricerca all'estero si scontra quasi sempre con molti problemi. Da un lato trova alcuni studenti molto motivati che sono ad un livello certamente non inferiore ai migliori americani o inglesi o stranieri in genere. Dall'altra parte si scontra con difficoltà istituzionali, ostacoli che si superano solo acquisendo appoggi importanti, anche politicamente importanti. Io sono stato relativamente fortunato, il mio Ateneo mi ha messo a disposizione gli spazi necessari per lavorare e io ho potuto fare il resto con fondi prevalentemente stranieri. Michele, hai una domanda per il professor Merletti? Credo che sia importante il rapporto con le aziende, sia private che pubbliche. Come funziona questo rapporto in Italia, nella sua esperienza? Il rapporto con le aziende non è tanto facile in Italia. Difatti, per chi fa ricerca applicata, il contatto con le aziende è fondamentale. E quando questo contatto si cerca, molto spesso l'industriale o il proprietario chiede all'accademico: ma di questo prodotto, di questo dispositivo, di questa tecnica, lei quanti esemplari mi farà vendere l'anno prossimo? E questa è una domanda che non si può porre. D'altra parte, operando nel settore sanitario, come nel mio caso, spesso si va dall'utente, che è il sistema sanitario nazionale, e questi chiedono: sì, ma questo dispositivo è commercialmente disponibile oppure no? E se non lo è, perché viene a parlare con me? Venga quando ha qualche cosa da vendere. Questo crea un loop, un feedback assolutamente dannoso per lo sviluppo della ricerca, che la rende molto difficile. Ma anche in Italia un meccanismo di trasferimento dei risultati, che spesso vengono raccolti da industrie straniere che poi producono prodotti basati su idee italiane che poi ci vengono rivenduti. L'attuale ministro dell'istruzione Profumo la scorsa settimana, proprio qui a Giovani Talenti, ha spostato il problema oltre. Per lui non è tanto la fuga dei cervelli all'estero da combattere quanto la difficoltà di rientro o di attrattività del sistema Italia. E allora, secondo lei, è il momento di passare a questo secondo step, oppure le cause della fuga sono ancora così eccezionali e gravi che non si possono dimenticare? Credo che il ministro Profumo abbia assolutamente ragione, ma il problema di attrarre gli stranieri è lo stesso di trattenere gli italiani. Metà dei miei 10 collaboratori, che sono tutti rigorosamente precari, alcuni da oltre 10 anni, sono stranieri. Se fossimo in grado di offrire opzioni agli stranieri, saremmo anche in grado di trattenere o di far rientrare dall'estero gli italiani di valore. Grazie professor Merletti e in bocca al lupo. Grazie. E domanda di rito per Michele Bolognesi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Vi consiglierei di avere fiducia. Ci sono tanti posti bellissimi al mondo dove sono contenti di assumere persone intraprendenti, dinamiche e con voglia di fare. E questi posti la vita è più semplice e quindi più serena. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi torniamo nella Grande Mela per parlarvi di un'associazione che riunisce i nostri professionisti a New York. Il nome dice tutto: Professionisti Italiani a New York. Massimo Fantini, cofondatore di PIN New York. Professionisti Italiani in New York City è stata fondata nell'ottobre-novembre del 2010. Abbiamo circa 450 membri. Volevamo promuovere l'italianità, volevamo promuovere la nostra professionalità, e volevamo creare un networking tra di noi. Che tipo di giovani professionisti si possono incontrare a New York? Ci sono in questa associazione avvocati, dottori commercialisti, executive che lavorano presso società, US subsidiary di società italiane, e ci sono anche persone di medio livello in termini di figura professionale. Tutti hanno voglia di fare qualcosa, o comunque c'è un'energia interessante fra di noi. Perché sono lì? Molti di noi sono venuti qua un po' per forza, alcuni un po' per fortuna. In Italia non eravamo riusciti a trovare un lavoro che potesse premiare la nostra professionalità. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un sistema meritocratico, abbiamo trovato un sistema dove se si lavora sodo e se si hanno capacità professionali ci sono molte possibilità, non ci sono le barriere che ci sono in Italia, non c'è la necessità di doversi